Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Ben ritrovati anche quest'oggi sulle frequenze di Rock FM. Vi giunge il saluto da parte di Giulio Caperdoni, che vi terrà compagnia come sempre fra le 19 e le 20. Giunti a metà settimana, direi che è arrivato anche il momento di dire perché vi sto leggendo Sulla strada di Jack Kerouac questa settimana. Fra l'altro una mia copia personale del febbraio 1980, vedo qua la data, decima ristampa degli Oscar Mondadori, una rovinatissima copia di Sulla strada con la prefazione di Fernanda Pivano, comperata ai tempi del liceo, e quindi non è assolutamente la versione senza i tagli adottati per motivi di censura quando il libro venne pubblicato il 5 di settembre 1957. Ed ecco svelato il motivo: sono 50 anni dalla prima pubblicazione di On the Road, di Sulla strada, di Jack Kerouac, e quindi mi sembrava giusto usare le sue parole per intercalare la musica di Eclettica e gli sprazzi cinematografici di Eclettica. Stava per arrivare il più lungo passaggio della mia vita. Un autotreno con una piattaforma sul dietro e circa 6 o 7 ragazzi sdraiati sopra, perché gli autisti, 2 giovani agricoltori biondi del Minnesota, prendevano su ogni singola anima che trovavano per quella strada. La più sorridente, allegra coppia di prestanti buontemponi che si potesse mai desiderare di vedere, tutti e due con indosso camicie di cotone e tute, niente altro. Entrambi persone per bene, dai polsi massicci, con larghi sorrisi di benvenuto per chiunque e per qualsiasi cosa incontrassero sul loro cammino. Io corsi, chiesi: «C'è posto?» Loro dissero: «Certo! Salta su, c'è posto per tutti!» Non ero ancora sulla piattaforma che l'autotreno partì rombando. Barcollai, uno dei viaggiatori mi afferrò e mi sedetti. Qualcuno fece passare una bottiglia di whisky di infima qualità, che era alla fine. Ne buttai giù un lungo sorso nella esaltante, poetica, piovigginosa aria del Nebraska. «Urrà! Ecco che andiamo!» urlò un ragazzo con un berretto da baseball, e quelli lanciarono la macchina a più di 100 all'ora e superarono tutti lungo la strada. «Stiamo viaggiando su questo schifoso arnese fino da Des Moines. Questi tipi non si fermano mai. Di quando in quando bisogna urlare per fare una pisciata, altrimenti ti tocca farla a mezz'aria. E aggrappati, fratello, aggrappati!» Questo era ancora Sulla strada di Jack Kerouac. Litigare, faccio il provino per... mostrare che la terra è piatta. Ma che ora no? Thank you. Eclettica si è aperta quest'oggi con Adriano Modica, artista italiano che nelle scorse settimane avevamo già avuto modo di ascoltare, che esce in questo mese di settembre con Il Fantasma ha paura, suo disco per la Trova Robato Records, sempre che io abbia detto le cose correttamente, l'etichetta di Mariposa. Insomma, Adriano Modica ha avuto una carriera di attore, soprattutto nelle fiction, anche nei corto, ma è nelle fiction che sicuramente ha avuto più visibilità, perlomeno televisiva, ma da sempre è anche un musicista. Un musicista che ha avuto occasione di collaborare con Marco Parenti, di suonare con gli Ulambator, di suonare nei John Merrick, di tanto in tanto anche negli Adama Nera, nel Parto delle Nuvole Pesanti, ed ora esce con questo album a suo nome, dal quale ci siamo ascoltati il pezzo Allegro, ma non troppo. Poi è stata la volta degli Akron Family con Phenomena ed ora quelli che vengono definiti The Loudest Band in New York. Loro di rumore ne fanno parecchio, si chiamano A Place to Bury Strangers. È il nuovo gruppo, un terzetto di Oliver Ackerman, che prima era leader degli Skywave. Il pezzo To Fix the Gash in Your Head è estratto dall'album pubblicato ora da Killer Pimp, album omonimo, ovvero si è intitolato A Place to Bury Strangers. Guardai la compagnia. C'erano due giovani agricoltori del North Dakota, con berretti rossi da baseball, che è il copricapo tipico dei giovani contadini del North Dakota, i quali erano diretti verso i raccolti. Avevano avuto dai loro vecchi il permesso di andare via da casa per un'estate. C'erano due ragazzi di città, che venivano da Columbus, nell'Ohio, giocatori nella squadra di calcio del loro liceo, che masticavano gomma, ammiccavano, cantavano nella brezza e dissero che facevano l'autostop per tutti gli Stati Uniti durante l'estate. «Andiamo a Los Angeles!» urlarono. «Che ci andate a fare? Diavolo, non lo sappiamo! Che importa?» Poi c'era un altro tipo, alto e magro, con uno sguardo subdolo. «Di dove sei?» chiesi. Stavo sdraiato accanto a lui sulla piattaforma. Non si poteva star seduti senza venir sbalzati fuori. Non c'era una sponda. E quello si voltò lentamente verso di me, aprì la bocca e disse «Montana». Infine c'erano Jean del Mississippi e il suo protetto. Questo era ancora «Sulla strada» di Jack Kerouac. You always have a very smooth explanation ready, huh? What do you want me to do, learn to stutter? Siamo quasi giunti al cosiddetto giro di boa, anche per quanto riguarda quest'oggi qua in Eclettica. Gli ultimi due brani ascoltati erano due brani che fanno parte ormai da tempo della nostra piccola e confortevole rotazione, la rotazione che ci siamo creati qua all'interno del nostro spazio musicale. Prima The Most Serene Republic con Sherry and Her Butterfly Net e poi Azobi Zexu con Goodbye. Si chiude prima di arrivare appunto al giro di boa per poi riprendere per altrettanta musica, altrettante letture e altrettanto cinema con gli italiani Jennifer Gento, Electric Princess.